giudice si occupano. Però, se tu non vai. Luia, ma lo sai da quando lo sto cercando a Alessio per fare quel lavoro alla casa? Lì per mettermi quel cavo nuovo e ci hanno preparato l'antenna. C'è già poco tempo perché è innamorato, capito? È innamorato e è in giuccino, ma è. A lui la sua compagna la sta uccidendo. Ha fatto approfittare, adesso che ce la fa, io dopo ce la fa più, sicché devo approfittare finché la barca va, bisogna lasciare andare. Finché la barca va, lasciala andare. Allora, ma per cucini mi chissà cosa diceva, ma sono più sotto. Prova a chiamarlo, invece, c'è. Ehi, se fosse stato io a sotto avrebbe parlato, vai, oppure magari non può parlare adesso. Ma ti sente, vai, ma ti sente se c'è la parecchia acceso. Maledetto, è un maledetto quello lì, è un maledetto. È un maledetto fra le urne quello lì. Va, per il giudizio, va, è un problema giudizio, capito? Per cui, va, è diventato un po' bisogno. Bisogna fare l'operazione. Togliene quella roba dall'orecchio e tappagliano un po' con lo zio, con le, rottura a coso, si tira buscio. Fai il sangue di dire. Gloria, per carità. Così. Per il resto tutto bene. Si trovati, non ci possiamo lamentare. E vabbè che tu, da quando c'è in pensione, se ne freghi, hai capito, per la tua zia, e vabbè, ci sono un po' di anni di differenza, e mi può essere come un padre per me. Stava a parte figliolo mio pure, sicché ti ha lavorato abbastanza, per cui ti aspetto adesso, così che adesso tocca a voi. Sempre che ce ne sia. Cosa c'è? Non c'è nulla, non ho preso. Travaglio, nulla, non venne, tanto anche se travagli. Di là, non ve ne so. Sì, già te le do, però si brucia la giornata, ho preso. Non c'è da solo, no? Troppo così. Non ce l'è per tutti, è un macello, più stava andando, più sta diventando. Va bene, e via. Ma che gioventù, diciamo mia, non ce n'era di questi problemi, capito? Se uno voleva lavorare, il lavoro lo trovava. E per cui, perché adesso, via, non ce n'è. Adesso secondo dove vai? La prima cosa ti chiedono, qua piano hai. Se c'è una certa caro ti pigliano. Perché a loro non mi conviene prendere una persona grande per pagare di più, capito? Sicché invece piglia un giovane e non paga le tasse e allora gli conviene. Così che quello là che è più grande rimane a fondo, capito? Invece che prima non c'erano questi problemi. Purtroppo così, chissà, è una volta nostra come siete voi. Il discorso è quello, obbligo, una certa età non si piglia nessuno perché pagano troppo le assicurazioni, adesso la gente preferisce prendere i ragazzini, un metà li paga loro e metà li paga lo Stato, capito? E noi, a mani a mano. È un macello. È un macello, un po' che c'è, adesso pigliano questi extracomunitari che li pagano poco, e li conviene all'azienda, capito? E anche quello c'è, quello vuol dire no. si butta anche per pochi soldi, mentre invece l'italiano per pochi soldi non ci va, preferisce andare al fondo. Il discorso è anche quello. Questi qua ce l'hanno rubato il posto, hai capito? Ci hanno rubato il posto di lavori, questi extracomunitari. Loro vanno anche per 10 euro, hai capito? Allora ci sarebbero rubati il posto loro, bensì è lo Stato che fa entrare questa gente. Capito? È chiaro che là un'azienda ha queste persone in prende perché prendono poco e loro ci guadagnano, mentre va italiano non ci guadagna niente. È tutto lì la questione. Certo, se non c'è, prima magari non c'erano tutte queste persone, il lavoro c'era, adesso invece il lavoro non c'era perché sono impegnati da queste persone, capito? Prima che loro hanno diritto di lavorare, però non ce ne fa nulla e continua a rientrare in Italia e questi deve guardare il lavoro per l'italiano. Anche quello è l'unica è trovare il lavoro fuori e farti assicurare tutto quanto se stai bene, capito? Qua in Sardegna oggi con la crisi che c'è non ne trovi, vediamo un po', mi devi ricorrere all'assistenza sociale e devi avere un bel calcio in culo, capito? Per poter lavorare, capito? Tutto questo prima non c'era, anzi prima il lavoro cazzo ce n'era anche a truccarti la schiena, adesso manco quello. Ma anche fuori il tuo lavoro mio, non ti credi? Anche fuori, anche gli altri lavori sono la stessa cosa di qua e non ti credi che siano migliori che siano quelle persone. Se tu guardi la TV, ma per tutto sono scioperi e non c'hanno lavoro, disoccupazione da una parte all'altra, per cui la maggior parte tutta l'Europa è così. Purtroppo si avrà un peggiorante, chissà che lo cambi, ma mi sembra una questione seria veramente. Poi è tutto un macello, ho capito, è tutto un macello, se loro avevano pensato cazzo a barcarsi la roba di quanto cazzo prendono questi cazzo di politici con i soldi e aiutare un po' tutto quanto il mondo, è inutile che tu mi passi le cose, la luce, le tasse, quella roba là, ma cosa me la faccio a fare, anche cosa, arrivare a pieno di costo, è il discorso anche quello, è quello lì il discorso, hai capito, che stiamo abbassando la luce e il gas, anzi dico questo che li stanno aumentando, ogni tanto aumentano, debita, però lo stipendio a noi non ci aumentano mai, sono sempre essi tanti, se è possibile te ne fregano ancora, basta poche quelle che ti danno, ecco poche che ti danno te ne fregano a un certo punto perché sono tutti questi aumenti e ho controllato, per cui come si fa? È un po' la crisi è dappertutto in Italia, è dappertutto, per cui ecco, la questione seria veramente. Sì, cazzo, è uno che non c'ha lavoro, cazzo, che c'ha famiglia e non lo so io come va a finire, c'è l'affitto da pagare, c'è l'acqua, c'è la luce, c'è il vestire, deve mangiare, e come fa a pagare l'affitto se non lavora uno? Quello è il discorso, hai capito? È quello. Uno arrivato a un certo punto, cazzo cosa fa? Se è una casa in affitto, non riesce mai a pagarsi l'affitto, figurati, se deve accampare la famiglia. È un fatto serio, un fatto serio veramente. Speriamo che cambino le leggi per cui riescono a mettere a posto almeno il lavoro, perché se ci fosse stato il lavoro, uno lavorando, beh, tira avanti, ma è come se non si lavora in favore. Poi non è possibile, non è possibile che possa così. arrivo qua. Ciro, che c'è chiaro, buona domenica, buona passeggiata e assistenziamo. Grazie, la chiacchierina. È un corso. Buon tutto, buona carica, buon tutto quanto, buon evento. Cerchiamo tutte le prossimine, ciao ciao. C'era qualcuno, stava soprano mano, chi è? Non ho idea che mi senti, no? Ma che sei? Puoi indovinare, come, ormai ho cambiato la batteria, ma non... Ma è mattino sì, c'è un po' mattina la radio, non ho capito chi sei. Emanuele. Emanuele sei, il forza pacchiata, va bene. E come ti succede? Buongiorno. Io vedo tutto da parte, mi siamo cambiato appunto la batteria del microfono. Comunque vedo che sto uscendo adesso. Buongiorno a tutti, buongiorno, saluti. Va bene che ti fatta bella oggi. Avrei approfittato la giornata bella. Ormai dopo tanto, vai, ti risentiamo. Mi fa piacere comunque. Tutto bene, sì? Grazie a Dio, raffreddato sono, come senti? Insomma, già ce la caviamo. E Mario, come sta? Mi stavamo chiacchierando stamattina. Tutto il solito, Mario, sai com'è. Un problema, è tirando avanti, capisci? Ha chiuso poc'anzi perché c'è una pelle che non stava funzionando bene, se tu fatto a chiudere. Sì, comunque, ma fa bene. Sarebbe stato contento se l'avrebbe sentito perché me lo chiede sempre. Emanuele, fa altre cose da fare, per cui impegnato e così via. Comunque, io vado sempre i saluti, va. Ritorna a salutarmelo, dillo che sono tutto raffreddato, faccio schifo. Vabbè, saluta anche l'amico, buongiorno a tutti. Ciao Emanuele, hai sentito da questa parte di Lucino? Buongiorno. E io ho perso la condizione del tempo, è da parecchio che ho lasciato tutto, però non stavo più trasmettendo, capito? Ascolto qualche volta, un poco, ma è di teatro, ma come vedi, c'è una voce che fa schifo. Quando uno è raffreddato, neanche voglia neanche di parlare al marchino, già. L'ho acceso e sono andato un po' con la città di Maria, più che altro perché c'era messa dall'altra parte, capito? Se no, manco lo toccavo. Oh, Emanuele, ma da dove stai modulando? Non si dicono queste cose. Faccia bene che zona sei, se sei qua, in Sassari oppure fuori. Io sono Sassari, vai. Ma zona Lina d'Alfa oppure Serra Serra? Solo non si dice. Vabbè, un'altra cosa, come ti sto arrivando io? Un controllo. Bene, già mi arrivi bene. Va bene, dai, riprendi io. Prego io, le unci. Ecco Dio, non è. Infatti, a mattina sono andato a Cotardiere e gli ho chiesto, ma non ti è venuto, Emanuele? Sì, che è venuto. Certo, mi ho capitato bene che andarci tutti e due insieme. Sì, sono andato 15 giorni, quando ne stavo parlando qui, quando 15 giorni fa, 20 giorni fa. Infatti me l'avete detto, io è venuto già. E ho facciamo sta abbastanza arrivare di nuovo. Okay. E adesso fra poco se ne va in pensione quello lì, così che dobbiamo cambiare noi, eh? Vuol dire che ci ritagliamo con attrezzate per l'Italia. Ok, ma non mi sta chiamando la signora, se rimane un po' frequente glielo ritocca due minuti, va bene? Un altro poco rimango, poi vado a fare, stanno preparando il pranzo qua anche. Saluta la signora e la ragazza, già ricordo tutti, già c'è ancora, già funziona ancora il cervello, sì. D'accordo, allora chiudo, dove vai? Mi ha fatto veramente piacere, ti ho sentito e però mi sta sempre bene e per cui saluto anche in famiglia. Lo sai, fatti sentire ogni tanto, per cui ne approfitto, vai. Ciao Emanuele, grazie a sentato, buona domenica a te famiglia. Santo Mancino, ciao Emanuele, ciao. Ciao anche io, buono. Saluto di Mario. Ben fatto, buon saluto Emanuele, ciao. Io che ce l'ho nel fondo cervello, già me lo ricordo sempre, ciao. Ok, ciao. Ciao Emanuele, ci siamo. Grazie per il ricordo, buon tutto, dai, buona carica, buon tutto quanto, dai, ciao ciao. Ciao a tutti, buona giornata. E chiudo anch'io che qua stanno preparandosi pappa. Oggi vi passo il rilancio. Ciao. Buona Pasqua. Ciao! Ciao Manuel, salutoni, come va? Non vi dire che mi hai riconosciuto o no? E mi proprio non ti riconosca. Auguri, ti conosco. L'apparecchio già è sempre quello, già rende ancora. Io mi ho provato con Giovania e non andava. E io ho trovato una batteria per il microfono che era già. Non c'era, non funzionava nulla. Ho cambiato la batteria e vedo che è saltata ancora. Ma voglia, voglia, le va bene. Dammi quanto come sto scendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto lo so, no? Già arrivi bene, già lo so. Sono libero anche io, già lo sai. Calma, calma. Chi c'è il canale? C'è la Giovania e un altro che non ricordo adesso, vedi, già si fa avanti, mi sembra che ti stava cercando per fargli un lavoretto, ma non so se c'è ancora. Calma, andò bene, saluto di Giovania allora. Ah, Giovania l'ho già trovato, l'ho già sentito stamattina, eh. Non c'è problema, poi chi c'era? Leoncino mi pare, Leoncino. Sì, ci sono. Ebbene Giovania. Come stai scendendo il trano? Aspetta, ma con quello sei con calma, sì. Ho capito un fumo. Ci siamo stati aspettando, infatti, ora è solita, adesso non entra. Mi sembra ieri spacciando la fa parecchio. Ho detto nel giro, a chi te lo mostrava il tuo, adesso è passato la fa parecchio, è passato questo contrario. Si credo, la coppia si è sempre bene, dai, va benissimo, va bene, dai. Vabbè, sì, solamente un bel alto di modulazione, basso di watt, sì. Evidentemente lei è appena acceso. Adesso c'è la punta dell'antenna sorta, è già vecchio. È sicuro? Rattuga, sei. Lascia la pizza, va, Manuel. Perché è appoggiata a quella di Mario, se no sarò male, tu. Vabbè, è tutto bene, non è che si possa fare, no? Allora, adesso, cosa ne dici tu? C'è la giornata o no? In campagna abito io. Ah, in campagna ti sei trasferito? Non sei più al corso? No, sono accabolato io, non sono al corso. Sono intanto sono accabolato in zona, quindi sono in zona alta, anche se l'antenna... e un autocosto scritta. Va bene lo stesso, vogliamo già prendere. Se non te la costruisci tu, l'altra chi se la fa allora? Io, non ci sono buono, non ci sono più capace, non rimane più dritta, peggio di quella di Mario, di Giovanni, a me. Se non si appoggia l'altra, ciao. Consumo la batteria, ciao! Ciao, buonanotte! salutiamo e fai cosa buona, buon pranzo, buona domenica, ciao, state bene, va poi. Fischi sempre, Pomponio, buttalo via quel microfono. Ciao, buona giornata a tutti, ciao. E qua ti sto facendo un pasticcio, tutti i Emanuele. Ah, faccio avanti, su e sotto, io non ci entro, io non ci sono tratto. Nel baracchino erano i V5, in quello stavo andando poco fa, mi guidavo il D5 in quell'apparecchio, come segnale. Cosa avete? Dice, diciamo, ma io arrivo quasi per lo scala. Qui è ancora l'M, è quella cosa. Incontrato al mio e questo è sotto. Chi è che arrivò a fare un V5? Ma lo vedo che il baracchino poco fa arrivava a 5 e tu per lo scala. E tu guarda, lo sentivo Santiago 4-5. In quell'altro baracchino sembrava stato un eco quando lo accendi, quando c'avevo io, perché quando lo accendevo c'avevo il QRM5. Sì, e Papà Noele c'è senza antenna, mi sembra, no, che già c'è l'antenna, è che io sono in montagna e tu sei in alto, sei anche Pomponio si dice che è sempre a luna e sole, ma è in alto. Adesso già non ne prende più colpi, ma lo è. Ma io colpi non ne ho mai preso da nessuno. Non ne prendo colpi neanche da terra, da Natalino, figurati. Io ma Natalino non sta piantando da quando si è sposato ormai. Da chi l'ha mollato, non sta piantando, quindi ma i colpi non ne prendi fino a cosa? All'estate magari ci sei andati su. Anche lui si è sposato, ce l'ha fatto finalmente. Madonna, che cambiamenti. Meglio non rientrare, meglio non rientrare. Meglio Giovanni. Emanuele, io anche capirla, ancora è fresco e sa. Si sta andando a fare, dai, si sta andando a fare. Speriamo che non se la faccia sotto in ultimo. Le tracce rapi, per la depressione. Certo che lasciamolo fare. Già era ora che si sposasse. Adesso almeno sa qualche cosa in più, vero Antonio? Devi provare che non si secchi la buzzona. Parla bene, ci sono bambini, ci sono maniaco. Oh, yeah. Bisogna fare come cosa l'allenatore del, non l'allenatore, il padrone del, non mi ricordo se era il Palma, quello che era, che si aveva fregato un bel po' di miliardi, poi era fuggito in Brasile e si era sposato con uno di 20 anni e c'ha, mi pare, 12 figli c'ha. Lo copiamo a Tomino. No, dico, bisogna vedere chi gli ha fatti i 12 figli. Quello se li ha fatti, quello, perché era milionario, se diventava in Italia non restavano. Adesso che gli hanno detto, dice, ritorno in Italia non c'è problema, è andato tutto in prescrizione, adesso è tornato e abita attorno a Roma. Capito? E quello che ti dica, sei anziano e con una ventenne a fare 12 figli, ci vuole tempo, ci vuole, e bisogna prenderla con calma lì. No, ne aveva già, mi sembra, 7-8, là ne ha fatto 2. Buon per lui. Adesso chiudo veramente, là. Lo veramente, se no, poi è tutto mandato che attaccata la pericchia, cioè. Boh, è da tanto non mi cambia un centrale, per cui ne approfitto, va. Ciao, Tony, allora, eventualmente ti telefoniamo. Ciao, Manuel, buon pranzo ancora e dice qualche volta poterci avvirare, ce l'hai la macchina, mia, lo sai dove abitiamo? Sì, la macchina fa piano piano. A piano piano, tutto a piano piano, mi capito mi hai? Lo so, ma dai. Si pensa che si potrebbe fare, dai, una scappatina si potrebbe fare, almeno, lo dico, almeno ogni tanto, dai. Ci penserò, ma non ti sente Mario, non si vede che ha chiuso tutto, se no ti avrebbe sentito. Beh, ciao, salutatevi tutti quanti, che me ne vado a pranzo anche io, ciao. è già quasi pronto, prima che si raffreddi, ciao. Ah, Manuel, d'accordo, intanto te lo saluto. E Mario deve essere indaffarato in la pappuccia adesso, perché lui ha questo la mangia, E allora deve essere impegnato, sennò sarebbe entrato senz'altro, ma anzi l'avrebbe fatto piacere. Ok, ciao Manuel, buon pranzo, vai Antonio. Yeah, ciao Manuel, ci sentiamo, saluto i belli, buon tutto. Ciao anche Gian Maria, dai, io sto chiedendo che preparo per il pranzo, siamo un mal di voi. Sentiamo di mettere stasera, va? Ciao, un riparo a tutti quanti, salutoni, statevi bene, ciao. Ok, ciao Manuel, ciao. Ciao anche a te e anche a me, buon pranzo, dai, ci sentiamo. Anch'io chiedo tutto. A stasera, eventualmente, ciao. Ok, ciao.